Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziando Max Ferrigno per la corta regia, ringraziando Carlo Menga per la compagnia rassicurante che ci ha tenuto al nostro fianco durante l'intera trasmissione e tutti voi ovviamente per la vostra attenzione, vi rinnoviamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora, non senza aver prima passato la parola un attimo a Carlo. Sì, che devo ricordarvi per una volta tanto, permettetemi, un altro appuntamento è quello del concerto di solidarietà con Sofri Bonpressi e Pietro Stefani, che è stato convocato, che si svolgerà giovedì 29 maggio alle 20 al Paravobis di Milano. Vi partecipano un mucchio di persone in ordine alfabetico da aria a zucca, non ve li leggo tutti, e quello che conta è che l'iniziativa serve a raccogliere fondi per la difesa. E il giorno dopo, il 30 maggio, il Tribunale di Brescia deciderà se archiviare o meno l'esposto su vendibite pressioni sui giudici popolari, quello di cui parlavamo prima. È un argomento interessante.